Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. A Destini incrociati oggi ci si addentra nella storia delle forme, dei colori, delle pennellate che hanno contribuito a cambiare non solo l'estetica, ma anche la percezione della realtà in senso più vasto. L'arte è sempre stata lo specchio, oltre che dell'interiorità e delle pulsioni più intime di chi se ne occupa, anche dell'andamento storico del mondo e della società in generale. L'espressione artistica dagli antichi egizi agli odierni videoartisti è un enorme contenitore di idee, di racconti, di esperienze in grado di mutare il corso del tempo, a volte rendendolo più vivido, a volte spiazzando le platee e scuotendo le coscienze. L'arte è un concetto nobile, eppure necessita anche di un forte radicamento nella pratica, nel concreto. Gli artisti non vivono unicamente d'aria e d'amore per il bello. Hanno bisogno di qualcuno che creda in loro, che li sostenti, che li ispiri. Senza un soggetto da cui trarre il suo capolavoro, un artista non sa che farsene della sua ispirazione. E senza un magnate, un compratore, un committente che creda in lui, l'artista sarebbe spacciato. La storia dei grandi maestri della pittura è costellata di figure collaterali, di persone che agendo dietro le quinte hanno reso possibili miracoli su tela che oggi si ammirano nei musei di tutto il mondo. Anche il primo protagonista di oggi deve la sua fortuna a un incontro, ma è ancora presto per scoprire le dinamiche che hanno condotto al felice sodalizio. Prima dobbiamo fare un passo indietro, nel paese natale dell'artista di cui stiamo parlando. Il suo nome è Pablo Picasso. Pablo Picasso. La sua terra è la Spagna. Siamo a Malaga, nel sud della penisola iberica. L'Andalusia è una terra fiera e assolata, la cui identità è data dalla somma di forti contrasti, uno su tutti, quello tra la vita e la morte, perfettamente simboleggiato dalla tradizione della corrida de toros. Il piglio del torero, la sua ostentata sicurezza, incarnano perfettamente lo spirito degli uomini nati in questa terra. L'Andalusia è abitata da gente altera, a tratti addirittura superba. Ed è qui, nella patria indiscussa del machismo, che il 25 ottobre del 1881 nasce Pablo Picasso. Così lo ricorda un'amica, Rosamond Bernier. Direi che Picasso era spagnolo a tutti gli effetti. Per il suo modo di vedere le cose, per le sue passioni e per il suo timore nei confronti della morte. La famiglia di Pablo fa parte della media borghesia andalusa. Il padre, Don José Ruiz, insegna all'Istituto d'Arte di Malaga ed è curatore del museo locale. Si diletta anche come pittore. È specializzato in quadri naturalistici, nei quali ritrae soprattutto volatili. Il suo non è decisamente un talento spiccato. Dipinge più per mantenersi in allenamento, nella vana speranza di realizzare un giorno o l'altro il quadro perfetto. Non puoi immaginare che sarà il figlio a compiere il miracolo che a lui non riesce in una vita intera. Pablo non ha fratelli. E si sa, i figli maschi finiscono con l'essere costantemente monitorati e idolatrati. La società spagnola, alla fine dell'Ottocento, non è immune dall'idea che siano gli uomini ad avere in mano le chiavi del potere e del successo. La madre adora Pablo e riversa su di lui tutti i suoi sogni e le sue aspettative, ripetendogli costantemente una frase: tu sei destinato alla gloria, se farai il soldato diventerai generale, se prenderai i voti sarai papa. Il suo futuro sarà splendente in ogni caso. L'infanzia di Picasso, la permanenza e la crescita in quel clima prettamente femminile, in cui il piccolo Pablo è l'unico maschio ad essere ammesso, forma inevitabilmente il suo carattere. Il biografo John Richardson ne è certo. Non bisogna dimenticare che Picasso è cresciuto in una casa piena di donne. Suo padre, a fine giornata, andava al caffè e restava ore in compagnia degli amici. Nel frattempo, a casa, la madre, due zie e due sorelle passavano tutto il loro tempo a badare a Pablo. Ed è anche questo che, in seguito, ha fatto sì che avesse relazioni complicate con le donne nel corso della sua vita. Tutta quell'adorazione non fa che fomentare in Picasso la certezza nelle sue capacità. È il fulcro della famiglia, il perno attorno al quale ruotano le vite degli altri membri. E il rapporto con le figure femminili nel corso degli anni segnerà drasticamente la sua vita e la sua carriera. Sarà proprio una donna, un giorno, a cambiare drasticamente la sua vita. Ma Pablo adesso è ancora del tutto ignaro di quello che il futuro ha in serbo per lui. Intuisce, comunque, di essere destinato per sempre a restare al centro dell'attenzione. If I were a painter, and could paint a memory. I'd climb inside the swirling skies to be with you. I'd climb inside the skies to be with you. È nel campo dell'arte che Pablo è destinato ad eccellere. Già da piccolo mostra interesse nei confronti della pittura. Prima ancora di essere in grado di parlare, Pablo prende in mano la matita e imita il padre, cimentandosi in scarabocchi che ben presto diventano schizzi e quindi disegni. Una delle prime parole che pronuncia appena dopo mamma e papà è Pith, diminutivo di lapis, matita. Il suo destino sembra scritto, anzi disegnato. L'altra passione del giovane Picasso, oltre al disegno, è quella per la tradizione spagnola della corrida. È totalmente rapito da quella che ai suoi occhi somiglia del tutto a una prolungata, estenuante schermaglia romantica. La danza dei tori e toreri lo affascina a tal punto che all'età di 8 anni realizza già disegni che rappresentano gli scontri all'interno delle arene. Le scene forti e sanguinose rimangono impresse nell'immaginazione del giovane Picasso, come ricorda il figlio Claude. Era totalmente affascinato dalle lotte con i tori. Il combattimento tra l'uomo e la bestia è anche una danza, un meraviglioso balletto d'amore tra l'uomo e l'animale. È una danza che inevitabilmente si conclude con la morte. È una grande storia d'amore che finisce con la morte. I sentimenti forti si addicono a Picasso. La sua è una personalità dominante, a volte addirittura corrosiva. La sua presenza, la potenza del suo sguardo, sono in grado di far sparire qualunque altra cosa si trovi nei paraggi. I suoi occhi sono magnetici, come ricorda Richardson. C'è un'espressione tipicamente andalusa che è mirar fuerte e si riferisce alla potenza dello sguardo, alla capacità di possedere gli oggetti con lo sguardo. Uno dei suoi amici di vecchia data mi ha raccontato che tutti restavano stupiti dal modo in cui guardava il foglio di carta. I suoi occhi erano talmente magnetici che sembrava che il foglio stesse per prendere fuoco. Già, il foglio di carta. Per Picasso è un elemento fondamentale. Il disegno, col passare del tempo, diventa una vera e propria ossessione. Appena posa gli occhi sul bianco del taccuino, così come sulle pagine di un libro, gli occhi di Picasso vedono oggetti, forme, colori che nessun altro può vedere. Persino la matematica, vista dalla sua prospettiva, assume una connotazione diversa. I numeri diventano figure, fisionomie, oggetti, a seconda della suggestione del momento. Già sui banchi di scuola è innegabile che il talento di Pablo sia destinato a traghettarlo ben al di là delle canoniche materie di studio. All'occhio allenato del padre non sfuggono le peculiarità del figlio, anzi, in qualche modo ne è addirittura geloso. Le sue speranze di successo come pittore crollano di fronte allo straordinario genio di Pablo. L'ambizione di Picasso, il suo desiderio di diventare il più grande pittore al mondo, scaturiscono dal fatto che doveva esorcizzare il fallimento del padre. All'età di 13 anni Pablo inizia a dipingere su tela. Ritrae tutti i membri della sua famiglia. Celebre è un ritratto del padre José che appare con un'aria malinconica e afflitta. Lo spessore psicologico, l'intensità, la forza dirompente dei ritratti di Picasso saranno fondamentali per lo sviluppo della sua arte. Ma è presto per parlare del ritratto che cambierà le sorti della sua carriera. Picasso è ancora giovane e ha tanto da imparare. Avrebbe bisogno di sbirciare al di fuori della realtà scolastica e familiare per esercitare l'acutezza del suo sguardo. E l'occasione per allargare i suoi orizzonti non tarda ad arrivare. Nel 1895 il padre di Picasso ottiene un incarico a Barcellona e vi si trasferisce con la famiglia. La città catalana è la più cosmopolita della Spagna e il cambiamento dagli antichi retaggi del sud andaluso alla modernità della Catalogna contribuisce a forgiare il suo carattere. Barcellona risveglia nel giovane pittore la passione per la vita, per la movida, per le relazioni sociali. Iscritto alla stessa prestigiosa scuola d'arte dove insegna il padre, dopo le lezioni Picasso inizia a frequentare assieme ai compagni i caffè, ritrovo di letterati e artisti. Ma non sono solo i caffè ad interessare i giovani studenti. È il barriocino, il quartiere delle prostitute, ad affascinare l'immaginario dei ragazzi assetati di esperienze. Picasso si divide tra il clima fumoso e eccitante dei bordelli e quello ovattato e pudico delle tele commissionategli dal padre, quasi sempre di soggetto religioso. Ne è un esempio il dipinto del 1897 intitolato Scienza e carità. Scienza e carità è un dipinto che fu imposto a Picasso dal padre. Voleva che il figlio si guadagnasse da vivere dipingendo grandi soggetti religiosi, che poi avrebbe certamente venduto per grosse cifre. Ma il talento di Picasso non si concilia troppo con questo genere di dipinti, benché anche da essi riesca già a trasparire il tocco geniale che caratterizzerà il suo lavoro maturo. La scuola d'arte di Barcellona non basta per stimolare il suo estro. Il padre decide di trasferirlo nella vera capitale artistica del paese, Madrid, dove Picasso frequenta la Reale Accademia di Belle Arti di San Fernando. Qui per la prima volta si trova faccia a faccia con i capolavori di grandi artisti come Goya e Velázquez, rimanendone totalmente rapito. Vuole conciliare la lezione dei grandi con la sua personale visione del mondo. Fin dall'inizio Picasso era diviso tra la pittura contemporanea e i maestri del passato. Da una parte voleva sconfiggere, superare i grandi pittori che l'avevano preceduto. Dall'altra voleva letteralmente assorbirli dentro di sé. La disciplina dell'Accademia madrilena, però, gli sta stretta. Ha bisogno di tornare a vivere al di fuori delle aule, di respirare gli odori delle strade, l'aria fumosa dei caffè. Pablo lascia l'Accademia e torna nella città che per prima aveva instillato in lui la passione per la vita, Barcellona. A Barcellona Pablo sceglie di vivere per conto suo, lontano dall'influenza paterna. Per pagarsi l'affitto disegna poster, cartelloni pubblicitari, locandine, illustrazioni, per conto di qualche settimanale locale. Ma soprattutto torna a frequentare i caffè della città catalana, ritrovo delle avanguardie artistiche di cui ormai si sente parte. Un gruppo di amici lo aiuta a organizzare la sua prima mostra. Gli addetti ai lavori lo snobbano, trovano i suoi quadri farraginosi e inconcludenti. A lui non importa. Sente che il successo e il plauso della critica arriveranno. L'occasione giusta arriva nel 1900. Un quadro di Picasso viene scelto per essere esposto nel padiglione spagnolo nell'ambito dell'annuale fiera internazionale. Il 19enne Pablo, nell'ottobre di quello stesso anno, fa il suo primo viaggio fuori dalla Spagna. La meta è la città designata per l'esposizione internazionale. È il luogo da cui provengono tutti i fermenti, le innovazioni, le avanguardie di cui Pablo si nutriva nei caffè catalani. È un luogo dall'allure inconfondibile. È il centro pulsante da cui la carriera di Picasso spiccherà il suo volo inarrestabile. Stiamo parlando, ça va sans dire, di Parigi. All'inizio del nuovo secolo, Parigi non è semplicemente la capitale della Francia. È il faro della modernità occidentale, il fulcro di ogni nuova tendenza letteraria e artistica. Il luogo dove confluire se si è in cerca di successo, di denaro, di visibilità. La Tour Eiffel svetta già da un decennio sugli Champs-de-Mars e sulla città intera. È l'edificio più alto del mondo, primato che conserverà fino al 1930. Il suo progettista, Monsieur Gustave Eiffel, è lo stesso che nel 1886 ha realizzato la Statua della Libertà, dono dei francesi agli amici al di là dell'oceano. Ogni avvenimento tra fine 800 e inizio 900 sembra legato in qualche modo alla Francia. Un luogo imprescindibile se si è in cerca di fama e di fortuna. Picasso ne è consapevole, nonostante le immancabili barriere linguistiche. Lo scrittore Norman Mailer ricorda così gli albori dell'esperienza parigina di Picasso. Non solo Picasso era uno spagnolo a Parigi, e l'accento parigino è difficile. La lingua francese è difficile ed elegante, ed è parlata in maniera elegante specialmente dai francesi. Ah, dicevo, non solo Picasso era spagnolo, ma veniva da Malaga, dove persino gli spagnoli fanno fatica a capire la lingua, e la gente del posto è considerata inferiore, rozza. Certamente la lingua costituisce un ostacolo, ma non è certo con le parole che il giovane pittore punta a farsi capire. Inizia a frequentare i caffè di Montmartre, celebre quartiere bohemien traboccante di artisti, di modelle, di occasioni per risvegliare il suo estro pittorico. Frequentare i luoghi che furono di ispirazione per artisti come Renoir o Toulouse-Lautrec lo riempie d'orgoglio e di energia. Sono ormai lontani i tempi delle costrizioni paterne, dei buoni consigli sui soggetti appropriati da dipingere, sulle imposizioni dell'ambiente accademico. Il ventenne Picasso è focoso come la sua terra d'origine e ribelle come la patria della Rivoluzione francese. Ha trovato il posto giusto per gridare al mondo il suo talento. Ancora però non ha trovato il catalizzatore, la figura capace di intuire nei suoi quadri le meraviglie future, di intravedere la grandiosità del suo percorso e comprenderne il peso in termini di svolte epocali. I quadri di Picasso nella rutilante Parigi d'inizio secolo non destano troppa attenzione. Pablo attraversa un periodo difficile, dovuto soprattutto al suicidio dell'amico Carlos Casagemas. La malinconia lo spinge a confrontarsi sulla tela con soggetti sospesi in un'atmosfera cupa, dominata da toni freddi e lividi. È il cosiddetto periodo blu. Il suo futuro è incerto. Eppure Picasso sente che Parigi saprà offrirgli un'altra occasione. Nel 1904, durante uno dei suoi soggiorni quotidiani nei caffè di Montmartre, Picasso conosce Guillaume Apollinaire, giovane poeta la cui fama sta iniziando rapidamente a crescere. Apollinaire lo introduce nel circolo delle sue amicizie. Ed è proprio in questo fervido ambiente di intellettuali che Picasso fa l'incontro che cambia per sempre il suo destino, come ricorda lo studioso Michael Fitzgerald. I profani, amanti dell'arte, sempre a caccia di dipinti, sono stati di vitale importanza per Picasso, cioè così come per Matisse e altri grandi artisti del XX secolo. Erano disposti a comprare quadri spendendo cifre che la maggior parte delle persone non aveva nessuna intenzione di spendere, e sono riusciti a portare molti artisti sulla ribalta e li hanno resi non solo famosi, cioè, ma veri e propri fari d'avanguardia dell'arte del Novecento. È l'incontro con due persone, con due di questi ricchi appassionati a decidere per sempre le sorti della vita di Picasso. Una donna in particolare rappresenterà la chiave di volta di un'intera carriera. Un'americana a Parigi. Picasso non aspetta altro. Paris Marlowe, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles, et tes gueulantes accordéons, ça fait pas de rente, mais c'est si bon, tes gigoloses des habits, sous le métro de la Bastille, pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon. Prenez le lilas, fleur de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison, ça fait de l'oseille et c'est si bon. Destini incrociati. All'inizio del XX secolo, un artista, Pablo Picasso, cerca a tutti i costi di sfondare nel campo della pittura. È convinto, a ragione, che la Parigi dei primi del Novecento sia il luogo ideale per accendere l'ispirazione artistica. Ma il sacro fuoco dell'arte non basta per campare, figuriamoci a far fortuna. Ci vuole un compratore, un mecenate che sia in grado di mantenere e valorizzare il proprio artista di riferimento. L'arte è assai più prosaica di quello che ci si aspetterebbe. Non è solo estro e poesia, ma una realtà fatta di entità fisiche, di persone, innanzitutto. Persone che, come in questo caso, sono in grado di cambiare i destini della modernità. La svolta di Picasso ha un nome. Gertrude Stein. Gertrude Stein. Gertrude è a Parigi insieme al fratello maggiore, Leo. È il 1904 e i due hanno appena scoperto la loro travolgente passione per l'arte. Ma com'è arrivata questa trentenne americana originaria della Pennsylvania nel cuore della città delle luci e nel bel mezzo della vecchia affascinante Europa? Per scoprirlo occorre fare un passo indietro. Siamo ad Allegheny, nei pressi di Pittsburgh, Pennsylvania, nella zona orientale degli Stati Uniti. Alle 8 del mattino del 3 febbraio del 1874, in una signorile abitazione della Western Avenue, nasce Gertrude, l'ultima di 5 figli. La famiglia Stein ha origini ebree e tedesche. Sono borghesi e benestanti. Il padre lavora nel campo delle ferrovie e grazie ad esse accumula una vera e propria fortuna. Gertrude è ancora troppo piccola per immaginare il modo in cui insieme al fratello Leo spenderà gran parte delle ricchezze messe via dal padre. Gli Stein, infatti, benché borghesi, non sono intellettuali. A raccontarcelo è Gertrude stessa, parlandoci attraverso le pagine della sua autobiografia. Nacqui da una famiglia borghese molto distinta. Sono felice di non essere nata in una famiglia intellettuale. Ho in orrore la cosiddetta gente intellettuale. Mi è sempre parso un po' buffo che io, amicona con tutti quanti, sempre pronta a conoscere chiunque e farmi conoscere, non abbia suscitato finora che l'ammirazione dei raffinati. Il sostanziale pragmatismo degli Stein, in ogni caso, è destinato ad avere a che fare con le raffinatezze e lo stile di vita tipicamente europei. Nella primavera del 1875 tutta la famiglia si trasferisce nel vecchio continente per via degli affari paterni. Dapprima vivono a Vienna e poi, trascorsi 3 anni, raggiungono Parigi. Gertrude ha solo 4 anni. Eppure quella prima esperienza nella capitale francese, nel luogo che un giorno sarà la sua dimora d'elezione, non manca di lasciare il segno. Mio fratello maggiore descrive in modo delizioso i giorni in cui lui e la mamma giravano per tutti i negozi e compravano ogni cosa. Soprabiti in pelle di foca, berretti e manicotti per l'intera famiglia, per la mamma e per me, guanti a dozzine, cappelli magnifici, vestiti da equitazione, concludendo finalmente con un microscopio e l'intera raccolta di una celeberrima storia della zoologia francese. Poi ci imbarcammo per l'America. Questa visita a Parigi lasciò una grandissima impressione nella mia mente. Il ritorno negli Stati Uniti, tuttavia, è necessario. Gertrude deve frequentare la scuola, ha bisogno di crescere come tutti i bambini normali, affronta un percorso scolastico piuttosto canonico, elementari, scuola secondaria e infine l'iscrizione al college. Predilige le materie umanistiche. Si iscrive alla facoltà di lettere della prestigiosa Università di Harvard. Il suo cuore, però, batte per l'Europa. Il primo viaggio di una Gertrude ormai adulta e consapevole risale al 1896. Negli anni a venire la Stein si sottopone a una spola incessante tra i due continenti, quello di nascita e quello di futura adozione. Il fratello Leo è ormai esperto della cultura e della vita europea. Gertrude lo segue a ruota, imitandone ed alimentandone le passioni. Girovagando tra l'Italia e la Francia, è impossibile per due americani abituati ad ammirare le immagini sui libri non restare rapiti dalla moltitudine di reperti storici e opere d'arte, stavolta in carne ed ossa. La smania di possederne alcuni sembra essere la conseguenza più naturale di tanta stupita meraviglia. Gertrude e Leo iniziano ad acquistare dipinti nel 1904. Dapprima si interessano a Renoir e Cézanne, poi Gertrude scopre la sua passione per l'emergente Henri Matisse, di cui diventa presto amica e confidente. Di tutti questi artisti, Gertrude, forse inconsciamente, sembra apprezzare una tipologia di soggetti. Si tratta in gran parte di ritratti femminili. Gertrude ancora non sa che proprio da un soggetto di questo genere, immortalato su una tela che ancora non esiste, scaturirà un cambiamento epocale per la storia dell'arte moderna e contemporanea. Il destino non tarda a farla incontrare colui che sarà l'artefice della svolta. Fu in quei tempi che mio fratello scoprì un giorno, per caso, la galleria di quadri Sagot, un ex clown di circo equestre che teneva bottega in fondo alla Rue Lafitte. Qui Leo scovò i quadri di due spagnoli giovani. Del primo tutti hanno ormai dimenticato il nome. L'altro era Picasso. Il dipinto adocchiato dagli Stein, naturalmente, è un ritratto di donna. Rappresenta una ragazza nuda con accanto un cesto di fiori rossi. Gertrude però non è convinta. Trova che in quel quadro ci sia qualcosa di orrendo, di disgustoso, di aberrante in senso letterale. Qualcosa che devia dalla norma, che si impossessa della figura umana rimescolandone i tratti a proprio piacimento. Gertrude non sa ancora che è proprio questa la rivoluzione delle prospettive a cui è destinata a partecipare. Io e mio fratello non riuscivamo a smettere di litigare riguardo al quadro e tutti e due eravamo irritatissimi. Decidemmo finalmente che, dal momento che lui non poteva farne a meno, lo avremmo comprato. E fu così che il primo Picasso entrò in Rue des Fleurus. Nella casa studio di Rue des Fleurus, dove vivono i fratelli Stein, inizia a esserci una discreta selezione di dipinti. E gli autori delle opere appese alle pareti non tardano ad arrivare e ad affollare quelle stanze con la loro presenza. Gertrude e Picasso diventano amici. La loro è un'affinità intellettuale, scaturita dal condividere la passione per la vita e per il bello. Picasso è colpito dalla personalità di Gertrude, al punto da chiederle di posare per lui. Come la cosa sia andata veramente, nessuno se lo ricorda bene. Io e Picasso ne abbiamo parlato molto sovente, ma nessuno dei due ha un ricordo chiaro. Ricordiamo entrambi la prima volta che Picasso venne a cena e ricordiamo anche la prima volta che io posai in Rue de Ravignan per il ritratto, ma l'intervallo nella memoria è vuoto. Nessuno aveva mai posato per Picasso da quando aveva 16 anni ed ora ne aveva 24. Quanto a me, non mi era mai passato per la testa di farmi dipingere e nessuno ricorda come sia andata. Comunque, andò. Di memoria dei nostri protagonisti non riescono a scalfire la grandiosa portata del loro sodalizio. Il ritratto di Gertrude Stein è destinato a cambiare la storia per sempre. Destini incrociati. A Destini incrociati seguiamo la carriera di Pablo Picasso, un giovane pittore pieno di talento, ma privo delle giuste occasioni. Il suo destino agli inizi del XXI secolo si incrocia finalmente con quello di due americani innamorati dell'arte, Leo e Gertrude Stein. L'amicizia con Gertrude, in particolare, sta dando vita a uno dei più fortunati sodalizi artistici della modernità. Dal celebre ritratto di Gertrude Stein, infatti, prenderà il via quella gigantesca rivoluzione che porta il nome di cubismo. Che cosa si intende per cubismo? È la stessa Gertrude a tentare di darne una definizione nella sua monografia dedicata a Picasso. Il cubismo è una lotta per rappresentare le cose, ma solo quelle che si vedono veramente. Le certezze della realtà e della pittura ottocentesca sono crollate. Non vale più l'assioma secondo il quale le cose percepibili attraverso la vista sono le uniche esistenti. Il cubismo predica la scomposizione degli oggetti e delle figure partendo dalla certezza che la realtà non sia più comprensibile sotto un unico univoco punto di vista. Da qui scaturisce la smania per la frammentazione, per l'esplosione delle forme tradizionali. Ma come si è giunti a questa rivoluzione passando attraverso il ritratto di Gertrude Stein? Veniva la primavera e le sedute di posa giungevano alla fine. E un giorno Picasso bruscamente dipinse di botto sulla tela tutta la mia testa. «Non riesco più a vedervi quando vi guardo», disse con ira. E lasciò il quadro così com'era. Questo aneddoto di Gertrude ci dà la misura della frustrazione di Picasso nei confronti dell'obbligo per un pittore di ritrarre fedelmente il visibile, adeguandosi alla prassi che vuole l'artista immancabilmente impegnato a riprodurre nei dettagli il suo modello, qualunque esso sia. Picasso, pur motivato nella decisione di ritrarre Gertrude, si accorge di non riuscire a coglierne l'essenza. Improvvisamente, e dopo secoli di tradizione fondata sul disegno dal vero, Picasso capisce che la realtà non coincide necessariamente con quello che si vede. Nell'Ottocento i pittori scoprirono di avere sempre un modello da guardare. Nel Novecento scoprirono che l'unica cosa da non fare era guardare un modello. Il ritratto di Gertrude Stein è l'ultimo esempio del tentativo da parte di Picasso di conciliare due istanze ormai in lotta. Da una parte c'è la voglia di ritrarre fedelmente il reale, rappresentata dalla naturalezza delle mani e del busto di Gertrude. Dall'altra emerge l'impossibilità di rappresentare il soggetto, secondo i canoni della pittura tradizionale. Il viso di Gertrude, dunque, risulta deforme. Un occhio è vistosamente più grande dell'altro. L'intero volto appare sproporzionato, anticipando senza dubbio le frammentazioni e le distorsioni tipiche del cubismo. Le Demoiselle d'Avignon, dipinto tra il 1906 e il 1907, è il primo capolavoro scaturito dall'ossessione per la scomposizione. Il quadro è un insieme complesso di figure femminili distorte e in esso Picasso riesce a unire con forza e determinazione la preoccupazione cubista al complesso rapporto con le donne. Le Demoiselle d'Avignon, inizialmente incompreso dalla critica, gli regala però visibilità nell'ambiente dei pittori. Picasso, frequentando i circoli artistici organizzati da Leo e Gertrude Stein, si ritrova ad avere dei seguaci, insieme ai quali fa letteralmente a pezzi le regole che avevano governato la pittura fino a quel momento. È il critico Hilton Kramer a ricordarci la portata storica di un simile cambiamento di prospettive. La sua collaborazione con Braque è certamente l'evento più significativo di tutta la carriera di Picasso. Il cubismo rimane il punto più alto dell'originalità della sua carriera e la conseguenza è stata che tutta la pittura del Novecento è stata completamente trasformata. Al termine del primo decennio del Novecento, Picasso impugna il vessillo di una grandiosa rivoluzione. Gertrude Stein nel frattempo si dedica alla scrittura. La sua attività di mecenate non le ha fatto scordare la passione per le lettere. Nel 1909 pubblica Tre esistenze, cui segue di lì a poco C'era una volta gli americani. Il suo stile è frammentario, fatto di ripetizioni, di scarti, eccentrico e anche vorticoso. Gertrude è l'eroina della scrittura cubista. Ha insomma messo su carta quello che Picasso metteva sulla tela. Il successo di Picasso, intanto, è inarrestabile. Nel 1914 un suo quadro viene venduto per la cifra record di 12.000 franchi, più del doppio del prezzo corrente di un Van Gogh o di un Gauguin. Picasso intuisce la crescente importanza del valore artistico, stavolta inteso in termini strettamente economici, come ribadisce lo studioso Michael Fitzgerald. Credo che tra gli artisti del XX secolo, Picasso sia stato probabilmente il più astuto nel vendere i suoi lavori. Picasso aveva capito, più di tanti altri, che se i suoi quadri si vendevano bene, ad un buon prezzo e alla persona giusta, questo non migliorava solo le sue finanze, ma donava visibilità e coscienza della sua intera opera, consentendogli di essere preso sul serio. Picasso non è solo un pittore dal talento ineguagliabile, ma è anche un abilissimo venditore di se stesso. Uno dei primi esempi nell'arte moderna e contemporanea di artista pienamente consapevole delle grosse potenzialità del mercato. Picasso però non può condividere il suo successo con il padre. Don José, infatti, muore nel maggio del 1913. Benché le loro vedute riguardo all'arte siano sempre state diametralmente opposte, Picasso si sente enormemente debitore per il dono fattogli da Don José quando era piccolo. Gli ha messo in mano una matita, prima ancora di insegnargli a parlare. Se è uno dei pittori più quotati al mondo, lo deve anche a lui. Picasso era convinto di essere stato una delusione per il padre. Don José avrebbe voluto che il figlio diventasse un grande pittore accademico, dipingendo soggetti religiosi o cose del genere. E invece lui cosa fa? Diventa un cubista. Il padre di Picasso, uomo d'altri tempi, non poteva comprendere la portata straordinaria di un simile cambiamento. Una trasformazione che non sarebbe mai avvenuta se Pablo Picasso non avesse incontrato Gertrude Stein, donna dall'ingegno fervido e dalla curiosità indomabile, che fu al contempo mecenate, modella e amica. Ancora oggi io e Picasso ci intratteniamo in conversazioni solitarie. Ci sediamo sopra due seggioline, lassù nello studio alloggio, sfiorandoci le ginocchia. E Picasso mi dice: «Explique-moi cela», spieghiamoci. E ci spieghiamo, reciprocamente. Il successo di Picasso è strettamente correlato all'incontro con Gertrude. È stata lei innanzitutto ad avvistarne per prima il talento, quindi a incentivarlo, infine a ispirarlo in qualità di soggetto per il suo quadro più importante, quello che segna l'inizio della fine della vecchia concezione dell'arte e spalanca il mondo alle infinite prospettive della modernità. Se oggi le Demoiselles d'Avignon fa bella mostra di sé nel Tempio dell'Innovazione Artistica, il MoMA di New York, lo dobbiamo solo al genio dirompente di un pittore, ma anche al coraggio e alla determinazione di una donna innamorata dell'arte. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.